Rassegna Stampa Europa. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci spostiamo un po' dai quotidiani italiani ai giornali europei per la nostra rassegna settimanale sulle questioni appunto europee viste dai giornali europei. E comincio da Internazionale in edicola da ieri, perché una questione di cui la cronaca purtroppo così ci impone, ce l'ha imposta e poi è scomparsa dai giornali, è quella dell'Ucraina. Allora c'è un articolo tradotto da Kommersant che si intitola, lo trovate su Internazionale appunto, l'offensiva di Poroshenko nell'est dell'Ucraina. Dopo due mesi di scontri, scrive Internazionale, Kiev ha ripreso il controllo di Sloviansk, la roccaforte dei separatisti. A questo punto gli scenari possibili sono due: l'assedio di Donetsk o nuove trattative di pace. E qui naturalmente ci sarebbe il ruolo dell'Unione Europea, tutto da definire, anche perché il commissario speciale probabilmente sarà nominato nuovo, c'è un po' una transizione e intanto l'Ucraina aspetta che qualcuno, un po' come succede in Medio Oriente, imbastisca un vero tavolo di pace e magari cerchi di scongiurare il pericolo di una nuova escalation in un'Ucraina che era appunto uno dei focolai di guerra di questi mesi. Da Financial Times vi segnalo un articolo su Matteo Renzi. Abbiamo detto settimana scorsa che c'è ancora un po' questa luna di miele tra il nostro premier, che anche ha questo ruolo, perché noi abbiamo assunto all'inizio di luglio il ruolo di presidenza per un semestre dell'Europa, e Financial Times scrive: Matteo Renzi ha ottenuto più flessibilità in Europa, ma non sempre le promesse fatte da Berlino sono state mantenute. E poi c'è anche un'opinione sempre riportata da Internazionale di Florian Eder, pubblicata dal quotidiano Die Welt. Serve l'indulgenza europea. Scrive Florian Eder, l'Italia ha per 6 mesi la presidenza dell'Unione Europea e può stabilire l'ordine del giorno. Matteo Renzi ne ha subito approfittato, ha chiesto flessibilità per ridurre il disavanzo e avere quindi più denaro per gli investimenti. In Europa c'è un patto di stabilità e crescita. Se parliamo solo di stabilità, distruggiamo un pezzo di futuro. E sappiamo appunto che questo è un po' il cavallo di battaglia di Matteo Renzi in Europa, oltre al suo discorso molto anche immaginifico per recuperare il ruolo così anche ideale dell'Europa dove la pace è stata assicurata anche grazie a questa grande unione di popoli. In realtà poi il punto vero è appunto questo di avere un pochino più di flessibilità per riprendere a crescere. Dalla Wiener Zeitung, che è un quotidiano di Vienna, vi segnalo un'altra notizia di taglio diverso, però visto che purtroppo abbiamo parlato molto di guerra, c'è un altro focolaio che speriamo non si riaccenda, che è quello dell'Iran, dove sapete c'è un negoziato in corso, perché l'Iran è una potenza nucleare, gli Stati Uniti hanno molta paura di questa escalation nucleare, e quindi questo weekend, proprio oggi, si apre a Vienna un negoziato nucleare tra l'Iran e i paesi del 5+1, ne parla appunto il Wiener Zeitung, e spiega che anche se restano ancora divergenze sul controverso programma di Teheran, come ha detto il ministro degli esteri britannico William Hague in un'intervista appunto realizzata alla Wiener Zeitung, e anche se l'accordo è tutt'altro che certo, le parti cercheranno di chiudere o al limite di prorogare la roadmap che prevede un'intesa entro il prossimo 20 luglio. Dagli Stati Uniti hanno già anticipato la presenza del segretario di Stato John Kerry, anche se magari appunto questo articolo è di qualche giorno fa e ora vediamo se Kerry darà la priorità invece a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Da Parigi ci sarà il ministro degli esteri Laurent Fabius, i due si siederanno insieme ai rappresentanti Germania, Russia e Cina nel tentativo di colmare le distanze con Teheran in cambio di una graduale eliminazione delle sanzioni. Da Le Figaro vi segnalo, cambiamo completamente argomento, un tema, perché abbiamo parlato della mancanza di crescita in Europa, purtroppo riguarda l'Italia, ma riguarda la Spagna, riguarda il Portogallo e anche la Francia, che mi ricordo qualche settimana fa avevamo visto la sfiducia dei giovani francesi. Ecco, Le Figaro riporta questo sondaggio paragonandolo anche con analoghe percentuali in altri paesi europei, dove spiega che il 78% degli studenti francesi conta di espatriare per andare a lavorare. È un sondaggio realizzato da un istituto, l'istituto IFOP, per Le Figaro. In genere gli studenti francesi sono fiduciosi sul loro avvenire personale, il 63% si dice ottimista, però appunto per costruire un avvenire soprattutto professionale hanno già in programma di lasciare la Francia e andare a studiare all'estero. Torniamo alla presidenza europea dell'Italia, ma restiamo in Francia, con un articolo di Le Monde che scrive: l'Italia alla presidenza dell'Europa è una buona notizia, perché ho letto molte dichiarazioni recenti di Renzi e un'intervista su Le Monde della scorsa settimana. A parlare così è Bernard-Henri Lévy, che proprio in questi giorni ha presentato uno spettacolo alla Fenice di Venezia, che tra l'altro ha definito, lusingandoci, anche il teatro più bello del mondo. Lo spettacolo si chiama Hotel Europa e in questa intervista a Le Monde il filosofo francese, che è anche appunto drammaturgo e ha molti cappelli, è molto eclettico come personaggio, come intellettuale, dice: ho tre raccomandazioni da fare al premier italiano. Tieni duro, parla spesso con la signora Merkel e cerca di essere qui venerdì sera, che è appunto ieri sera per adesso che leggiamo questo articolo a qualche distanza, per la prima della mia opera. Sarebbe per me un grande onore, io non credo che Renzi ci sia stato, ma non so, verificherò, ma soprattutto sarebbe un modo per iniziare il dibattito che voglio aprire sull'Europa, perché ritengo che l'Europa sia oggi alla mezzanotte meno 5, si sta cioè disgregando sotto i nostri occhi. Quindi Bernard-Henri Lévy, che insomma cerca, forse anche con toni un po' esagerati, non so, giudicate voi, di spronare Matteo Renzi a usare questa occasione del semestre europeo non solo per parlare di crescita, ma anche per appunto per rilanciare l'idea di Europa come grande giardino di culture che possono convivere. Financial Times torna sulla questione delle riforme che l'Europa ha bisogno, che sono tantissime naturalmente. In questo caso dà voce a Sergio Marchionne, che ha lanciato un avvertimento all'Europa e a Juncker, in particolare il commissario designato. Juncker dice: la continuazione di come Bruxelles è ora, ci vorrebbe ben altro, non si vedrà un cambiamento drastico a Bruxelles perché le persone sono stanche di Bruxelles. Quindi Sergio Marchionne, che anche lui con dei toni un po' forti, cerca di spronare a un cambiamento, e anche ricordando la posizione di David Cameron, lo sapete, il premier britannico, che si era duramente opposto alla scelta di Juncker perché appunto la considerava una scelta di continuità che non teneva conto di tutte quelle esigenze di cambiamento espresse soprattutto dal successo dei partiti euroscettici alle elezioni del 25 maggio. Un altro articolo molto interessante di Financial Times riguarda l'immigrazione. L'Italia merita l'aiuto dell'Unione Europea per i migranti. È il titolo di un editoriale apparso su Financial Times questa settimana, dedicato al continuo afflusso di immigrati sulle coste del Nord Africa. Sappiamo, noi siamo impegnati in questa operazione Mare Nostrum, una delle tante richieste del governo Renzi, anche fatte dal ministro degli interni Alfano a Bruxelles, è quella di aiutare l'Italia, perché non è un problema quello dell'immigrazione, anche perché sappiamo che moltissime di queste persone vanno poi verso altri paesi europei dopo aver superato il primo ostacolo dello sbarco sulle coste italiane. Non è un problema che l'Italia può risolvere da sola. Ma passiamo a Press Europe. Sapete questo sito che io trovo che aveva chiuso e poi ha riaperto grazie a nuovi fondi dell'Europa, che tiene monitorate un po' come cerchiamo di fare noi tutti gli articoli sull'Europa. E allora vi segnalo un articolo che ci sarebbe difficile leggere in edizione originale, apparso su Adevarul, un giornale di Bucarest, e anche in questo caso è dedicato a Matteo Renzi, definito forse l'anti-Merkel. Per il premier italiano, l'Unione Europea al volto della stanchezza e della rassegnazione, propone quindi un cambio di rotta urgente durante la sua presidenza. È possibile? Beh sì, potrebbe essere possibile. Cerchiamo di vedere anche qui il bicchiere mezzo pieno. Un'ultimissima segnalazione da Jutarnyi List, un giornale di Zagabria, quindi croato, un anno che si focalizza appunto sulla Croazia. Un anno dall'ingresso nell'Unione Europea, secondo questo giornale, i cittadini non hanno ancora integrato i valori e il livello di vita dei loro concittadini a quelli dell'Unione Europea. La colpa, secondo questo giornale, è della mancanza di pedagogia dei politici, però anche della resistenza della gente al cambiamento. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi. Un buon sabato da Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.